Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno, buongiorno chef, come stai chef? Buongiorno, buongiorno, maestro, buongiorno a tutti, Dani, buongiorno, come buongiorno. Va, come stai? Bene, bene, ma c'è una notizia subito. Tra prosciutti e torta fritta, oggi la puntata dedicata a te del fico. Sì, prosciutto e fichi, non è male, sono reduce dal festival, da Parma, dall'Anghirano, ma ora e saluto tutti, ovviamente mi sono divertito tantissimo, ho anche mangiato qualcosina e però volevo dire che c'è una breaking news, sono contento che no, siamo a borse chiuse. Ho mangiato qualcosina. Saluto Ferronato, saluto anche Marco Tulli che oggi è qui, saluto anche Claudia e il professor De Luca, ma volevo dire c'è una breaking, abbiamo le borse sono chiuse, me lo confermi? Sì. Sì, la mia sì. Perché dopo 4 anni cambia il numero degli SOS Oldani, importantissimo. Allora 349-239-0191. Abbiamo un numero dedicato, Ferronato? Vista l'importanza del programma. Ripeti che non lo so. 349-239-0191 per i vostri SOS Oldani. La puntata di oggi è dedicata ai fichi. Che rapporto hai con i fichi? Vedi quello che ho con te. Ma infatti io per estensione. Fichi neri, fichi viola, fichi verdi, insomma, cambiano il colore a seconda del sole che prendono. Dobbiamo stare molto attenti, la puntata è a rischio gaff da 1 a 10, 100. Cercheremo insomma di mantenere il nostro plomb e lucidità. Come sempre ci sono le ricette, come sempre un'attenzione particolare ai prezzi. Il nostro spazio news, però io il concetto di fico l'ho subito esteso, Con il nostro ospite. Esatto. Giorgio Pasotti, buongiorno, lei è un fico? Buongiorno, buongiorno. Ciao, Pasotti. Buongiorno, ciao, ciao Giorgio. Ciao Davide, ciao, ciao. Buongiorno, lei è un fico, diciamo la verità, insomma, no? Ma guarda, io sto camminando, so che idea tu ti sei fatto di un fico, ma se è un fico, è una persona ormai adulta che cammina per il quartiere Flaminio cercando di prima mattina una ferramenta che non trova, io... Cosa sta cercando, Pasotti? Che ferramenta? Sto cercando un appendino per un asciugamano di mia figlia. Ok, allora lo diciamo a tutte le unità, chi è al Flaminio in questo momento, quartiere bellissimo di Roma, non lontano da casa mia, tra l'altro ecco c'è Pasotti, lo riconoscete perché è il più figo di tutti, che cerca un appendino, venitegli incontro, brugole servono, brugole, chiodi... Ho tutto per montare, ma mi manca solo quello. Allora, cercare una ferramenta. Non so che rapporto tu abbia col fico, ma tu hai un rapporto, per esempio, con la cucina cinese, perché tu hai vissuto in Cina, quindi tu ci puoi dire veramente il pollo alla cantonese come si fa? Il pollo alla cantonese, guarda, no, io l'unico piatto che so fare, che ha, come dire, una sorta di eredità orientale, è il pollo al curry con il riso. Che non è male, che è l'unica cosa che tra l'altro so fare insieme ad altri due piatti, quindi veramente tutto si riduce a tre piatti. Che poi il fico ci sta bene, Giorgio, il fico ci sta bene perché comunque è un prodotto dolce, sai, cucina cinese, e devo dire anche un po' bergamasca, perché sui casoncei, esatto, magari in questo periodo, perché Giorgio è due fichi ce li possiamo mettere. Se li metterei proprio, sì. Ma io sono un amante dei fichi perché insomma, li ho sempre mangiati, sempre misurando le dosi, perché però, come dire, abusando c'è una sensazione un po' di pienezza, sì, di gonfiore, almeno personalmente. All'appa, sì, all'appa. Però ecco, nel minimo mi piacciono molto, appassionato. Sì, sono molto versatili perché dall'antipasto al dolce li puoi utilizzare. Vogliamo raccontare la prima ricetta a Giorgio così poi ci dà un giudizio? Aspettiamo la sua ricetta. Giorgio che è nato a Bergamo, no? Che è bergamasco doc. Invece dammi un segreto, poi torniamo al figo, grande rispetto. Però insomma, torniamo ai casoncelli o ai casoncei. Dai un casoncei, come si chiamano innanzitutto, Giorgio? Casoncei. Sono una delle cose più buone in assoluto. Del mondo. Beh, sì. la, in pratica è la forma del raviolo, di questo raviolo farcito che è particolare, la consistenza della pasta che è molto particolare, e poi come gran parte della pasta farcita italiana naturalmente naviga un po' nel burro versato, nel burro e salvia, che dà quel tocco in più di italianità a un piatto. Poi caso 6 dovrebbero esserci o essersi di carne, o qualcuno ha osato farli anche di pesce o con le verdure, però la ricetta base è quella con e il condimento, con perché poi ci sono ovviamente quelli bergamaschi, quelli della bassa bresciana, quelli della Valcavolca, è chiaro, cambiano leggermente la forma, la consistenza della pasta è quella, e poi ognuno mette, come fanno nel cappelletto il tortellino, ognuno mette le parti di maiale o di manzo invertite, di più o di meno. Però Giorgio, tu hai un ricordo su tutti che si staglia nel tuo pantheon, nella tua memoria, legata a questo piatto favoloso? Calcolo che insomma io ho passato i primi anni insomma, della mia vita passando le domeniche italiche, quindi dove tutti ci si riuniva a casa dei nonni e le madri facevano i casonsei, appunto, e poi se li mangiavano. La cosa di cui io ho un ricordo meraviglioso era la salvia, di cui io sono un chiotto, un po' come dire, non fritta, però un po' croccante. E amara, ecco. Vero? È amara. Sì, sì, ma una cosa proprio di, ho un ricordo di della salvia che insomma mangiavo più quello forse che casonsei, cioè quando andavo a prendere la salvia da tutti i piatti per mangiarmela io. Questo ricordo veramente. Sì, perché il ripieno quello classico è anche qualche pomodorino, però a crudo, no? Sopra. Pomodorino raramente, no, però raramente. Vabbè, non mi pomodorino come fosse un si può aggiungere se fai il cuoco di ricerca nuovo, però il ripieno me, lo confermerà Giorgio, è fatto prevalentemente con la carne, e poi nello specifico la salvia che attira, da lì nasce poi l'idea anche di quella salvia che si trova o si trovava nei buffet quando era possibile fare quella salvia, quelle foglie di salvia molto grosse, impanate poi fritte, quindi quasi come un piccolo finger food da mangiare, che arriva da un piatto classico qual è il casonsei, è singolare perché lui è, pur essendo milanese, però dice cassera, che non si capisce come lo dice. Insomma, come si dice, Pasotti? Lei è un po' milanese anche, oltre che un po' romano, la cassera. La cassera. No, cassera lui lo dice, no, esatto, in bergamasco, attenzione, cassera milanese nord-est. E io dico cassuela, Roma Nord. Cazzuola un po' più Corso Trieste, Brianzolo. Noi diciamo cassuela. Io lo sento dalla O, c'è una O che sembra un cinese che cerca di parlare italiano. La cassuela. Perché tu hai vissuto in Cina, adesso stai facendo anche un progetto con Paolo Del Brocco, no? Sì, abbiamo presentato sabato al Festival di Venezia, dove ogni anno mettono in scena questo focus Italia-Cina, dove si incontrano produttori, registi, distributori, dove ognuno parla dei propri progetti, cercando ovviamente una spalla produttiva cinese o italiana. Ovviamente è stato fatto tutto da remoto. Io e Paolo Del Brocco abbiamo presentato questo film che si intitola Dentro un mondo nuovo e racconta sostanzialmente un po', prende spunto dalla mia esperienza personale, cioè a 19 anni io partivo dalla Cina per studiare medicina tradizionale cinese, e poi di lì avvenne quello che avvenne. Però ecco, diciamo che lo spunto iniziale è quello, e abbiamo presentato questo progetto filmico a dei produttori che erano collegati dalla Cina, numerosi, e nulla, adesso aspettiamo, l'amo è stato buttato, speriamo bene che abbocchi bene. Fra l'altro ricordiamo che tu sei stato anche un campione di arti marziali, un sex symbol, un fico, appunto. Fra poco parliamo di fichi, e quindi tu una settimana fa eri sul red carpet di Venezia, adesso stai cercando un appendino. Giusto, un po' così, una settimana di stanza, camminando per il tuo quartiere Flaminio che tanto adori. Certo, meraviglioso quartiere, tra l'altro molto cinematografico, c'è Mappa, c'è Maxi, c'è Renzo Piano, l'auditorio. Vabbè, ci fermiamo un attimo, poi ripartiamo da qui, dai fichi. Io, Pasotti, Oldani. Mangia come parli. Siamo con Giorgio Pasotti, perché questa è una puntata dedicata ai fichi, ma in realtà al prodotto. Che prodotto è dal punto di vista gastronomico? È versatile? È versatile assolutamente, come dicevo, perché dalle varietà che ci sono, dalla consistenza che hanno, dalla maturazione che hanno, li puoi abbinare per più portate, dall'antipasto al dolce compreso. Difatti le ricette di oggi saranno un po' contro tendenza, per cui non farò il dolce ma farò misto tra insalate, pasta e addirittura carne, per cui è un prodotto che ne va utilizzato quando è ben maturo poco, perché porta molto la dolcezza nel piatto. E poi soprattutto quello che a me piace dei fichi è la consistenza che hanno le piccole granelle che hanno all'interno, che quando riesco a sentirle danno una sensazione diversa di quello che è magari un frutto che è piatto, che è solamente purè una volta che l'hai mangiato. Allora, per prima cui... ricetta, Giorgio, te la faccio scegliere a te, tanto lo chef è come un jukebox, cioè tira fuori ricette. Allora, puoi scegliere fra il fico nero al cartoccio, rucola amara e salsa alla vaniglia, il fico viola in salsa, spaghetti, vongole e menta, o il fico verde con fegato alla veneziana. Tra l'altro qui c'è la traduzione veneziana, ma non mi... perché, non mi addentro perché... No, ma poi soprattutto l'ho messo in veneziano perché sapevo che avrebbe detto il fico detto diventa così, un'altra cosa nella traduzione, no? Non so se tu vuoi lanciarti. No, non posso. No, però è dialetto, Pier. Vabbè, ho capito. Però adesso non è, posso parlare tutte le lingue, già parlo il bergamasco, il milanese. Però te l'ho scritto se volessi tu dirlo, visto che tu sei il commentatore. Dai, provaci, Pier, dai. Va bene, figa veneziana. Senti, Giorgio, che cosa scegliamo? Quale vuoi sentire? Il secondo, quello con gli spaghetti. Che poi è uno spago, cioè in realtà stiamo parlando dello spago, buttato allora, l'amma. Qui è molto semplice, apriamo le vongole, 500 grammi di vongole più o meno, perché poi dobbiamo dare anche il prezzo, perché ricordiamo certo. Che da quest'anno facciamo anche una sorta di food cost per la casa, per cui apriamo le nostre vongole. Io consiglio di aprirle al vapore, che riusciamo con un'operazione, una cottura molto delicata. Poi facciamo appena rosolare uno spicchio d'aglio in camicia, quindi non sbucciato. Uniamo le vongole che abbiamo pulito, liberato dai carapaci, a questo piccolo soffritto di aglio in camicia e olio. Bagniamo con 100 ml di vino bianco, lo facciamo evaporare. Cuociamo per 3-4 minuti. Aggiungiamo, una volta levato dal fuoco, delle piccole foglie di menta e le lasciamo in infusione così a parte. In questa preparazione direi che, come abbiamo iniziato quest'anno, vorrei cucinare la pasta secca in una maniera un po' diversa. Cioè quella della pasta della pentola a secco, aggiungiamo lo spaghetto, naturalmente la pentola deve essere abbastanza capiente, la pasta a secco, la tostiamo con leggermente. Con zero acqua o con poca acqua? No, zero acqua. Adagiamo la nostra pasta in una pentola capiente, facciamo tostare, rosolare, usiamo il termine tostare, forse più adatto che rosolare. Per cui coloriamo la colorazione della pasta, deriva dal fatto che voglio dare più gusto di grano al piatto finito, per cui lo spaghetto nella pasta nuda, nella pentola nuda e cruda, una volta rosolato che cominciamo a sentire il profumo di grano, aggiungiamo piano piano l'acqua, come se fosse un riso, giusto? Aggiungiamo l'acqua, la pasta comincia a piegarsi, comincia a cuocere, la cuociamo per quei 7-8 minuti a seconda della tipologia di spaghetto che noi vogliamo utilizzare. Per cui, una volta che la cuociamo, non la scoliamo, perché evidentemente quella poca acqua che aggiungiamo ci serve per mantenere una salsa ben densa alla fine. Aggiungiamo, una volta cotto, levando dal fuoco, le nostre vongole che abbiamo fatto rosolare appena appena con quella aglio in camicia e quel profumo di menta. E poi cos'altro possiamo fare? I nostri fichi viola li tagliamo a fette molto sottili, magari li mettiamo a 0 gradi in frigorifero, in congelatore, sì. Per cui addensano un attimo, tagliamo la fetta molto sottile con un coltello affilato, o addirittura, se il fico è ben turgido, anche con l'affettatrice, e appoggiamo sul nostro spaghetto con le vongole, profumo di menta, queste fette sottili di fichi. Che danno ulteriore freschezza. Potrebbero essere naturalmente anche cotti, facendoli saltare con una noce di burro in una padella, potremmo aggiungerli alla fine, avrebbero un'altra consistenza. Ma questa tostatura profumo. È applicabile a qualsiasi tipo di pasta, no? Sì, è una tecnica. È quell'idea che io volevo portare, che ho iniziato a parlare dalla scorsa settimana, per il nuovo anno, per una cottura della pasta che non venga scolata, per cui quando non scoli la pasta tu mantieni tutte le caratteristiche organolettiche all'interno. Fasotti, lei tosta? Ha provato questo tipo di... Guarda, ho seguito con attenzione, è venuta fame, è venuta. Sì, no, ma questa una fame nera. Nera, davanti al ferramenta. Sei tu solo, un uomo solo, nudo, ovviamente in senso metaforico, davanti al ferramenta, che pensa alle ricette di... Una brugola, questo punto. Esatto. Vabbè, ciao Giorgio, sentiamoci presto, ovviamente. Per quel ruolo lì, sai che sono oberato, ma insomma ci sono, parliamo. Sì, lo so, ti chiamerò per qualche anno prima, insomma, lo so, ormai che impegni sono, vanno da non abbiamo perso un attimo. Vedremo, ciao, non si Giorgio. Sa mai. Life is long and surprising. Abbiamo con noi Davide Sacchi, produttore di frutta secca, anche fresca, no, più fresca, secca. Più secca. Ciao Davide, come stai? Ciao Davide. Ciao Pierluigi, ciao Davide, tutto bene, grazie. Come anche voi. Come va il mercato? Come il mercato della frutta secca? Allora, il mercato vi dico, sta andando bene, perché comunque il fatto appunto che secca, questo con una shelf life abbastanza lunga, permette appunto dei consumi abbastanza prolungati nel tempo, quindi in questo periodo tristemente attuale, tristemente noto, devo dire che comunque abbiamo avuto una discreta coerenza, quindi una discreta vendita. Poi in casa è stata utilizzata molto la frutta secca, no Davide? Sì, cioè, quel periodo di lockdown, credo che tra lievito e poi anche nella seconda parte del lockdown, che ci siamo accorti che stavamo forse mangiando troppo, abbiamo cominciato a ridurre magari i carboidrati, a ridurre magari le carni per andare magari un po' più sui prodotti di vegetali o frutta. Esatto. C'è stata, vi dico, una piacevole riscoperta del guscio, della frutta secca guscio, certo. Proprio perché col fatto che appunto la natura ha dotato questi frutti di guscio, quindi di protezione, ha avuto un incremento nelle vendite che era assolutamente inaspettato. Assolutamente. Senti, quali sono le tipologie di frutta che vengono più vendute? Cioè, come si divide il mercato della frutta secca? Ma guarda, allora, il mercato della frutta secca ha avuto una forte destagionalizzazione nell'ultimo periodo, perché era un mercato principalmente ad uso di feste natalizie, quindi certo. Parliamo di ottobre, novembre, proprio dicembre. Mentre giochi a tombola, possiamo dire. Esatto. Il pranzo, il cenone era il classico. A fine pranzo mangiare appunto della frutta secca, arachidi, pistacchi e quant'altro. Col fatto che comunque si è instillata una sana cultura, quindi che la frutta secca fa bene e quant'altro, questo ha fatto sì che il mercato si destagionalizzasse, quindi venga consumata appunto tutto l'anno. Questo è sicuramente positivo e importante. Hai visto l'utilizzo come l'avete preso? Come al termine dei pranzi e delle cene, oppure coinvolgendo la frutta secca in piatti che non fossero solo dolci, ma magari antipasti o primi piatti? Bravissimo. O piatti principali, ecco. La puoi utilizzare, vabbè, poi tu Davide me lo insegni, la puoi veramente utilizzare dappertutto, quindi addirittura ho già visto, anche sentito degli smoothies con dentro dei prodotti di frutta secca, sì. Quindi questo ha fatto sì che comunque tutta la categoria ne giovasse, quindi che portasse del bene a tutto il mercato e alla categoria. E in cucina com'è declinabile questo comparto, questo settore? Credo che anche il fico, magari Davide in questo caso ci può aiutare, ci siano più varietà di fichi secchi, giusto? Che possono essere utilizzati senza l'acqua di vegetazione all'interno, perché vengono appunto essiccati e possono essere utilizzati addirittura anche per fare i lievitati. Cioè, mi viene in mente un nostro panettone di un paio d'anni fa, avevamo messo appunto dei fichi secchi all'interno, per cui credo si presti anche il tema di oggi per una tipologia di frutta che è, secondo me, anche tra virgolette moderna, anche se il fico è certo. Una pianta antica. Pezzo una lancia appunto a favore del povero fico, perché voi pensate, fico secco esatto, e fico in generale, voi pensate che è stata una delle prime piante utilizzate dall'uomo, quindi per la sua facilità di riproduzione, e dati ultimi che in Italia nell'ultimo trentennio la superficie coltivata a fichi è diminuita di oltre l'80%, certo. Quindi è sicuramente un prodotto sottovalutato, perché il fico ha veramente delle potenzialità, sia fresco che ancor di più essiccato, che uno potrebbe addirittura usarlo come, visto la sua fonte di zuccheri esatto, sani, come ottimo snack spezzafame e addirittura un'alternativa alle caramelle di tipo industriale, cioè quindi parliamo veramente di un super frutto che va tanto in voga. Allora Davide, due parole solo sul frutto, poi ti lasciamo al tuo sabato mattina. E dal fiorone al fico viola, verde, nero, il fatto che ci siano più colori di fichi è perché sono più piante, oppure è una pianta che a seconda del clima, del microclima, rende il fico di un certo colore, di una certa dolcezza? A livello italiano abbiamo anche due eccellenze che sono delle DOP, che sono il fico bianco del Cilento e il fico di Cosenza, perché non dimentichiamoci che appunto la maggior parte delle coltivazioni di fichi è in tre regioni, quindi è concentrata in Calabria, Campania e Puglia. Esatto. Quindi sicuramente il discorso che hai fatto tu delle varietà di piante porta sia alla varietà del colore finale del frutto. Va bene, non dite più non me ne importa un fico secco, perché non è offensivo. Vuol dire che ti importa tanto. Esatto, per questo grande settore. Grazie a Davide Sacchi. Ciao, grazie Davide. E fra poco vi ricordo i nostri appuntamenti, adesso arriva anche Monti, Marco Montemagno, poi avremo lo Spazio News, avremo altre due ricette, parleremo un po' di tutto quello che sta succedendo in questi giorni, in questo weekend, sempre con attenzione ovviamente all'attualità così importante in un anno oggettivamente non semplice anche dal punto di vista economico. Fra poco, poi gli SOS Soldani col nuovo numero che fra poco vi ridò. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, siamo pronti. Ah, beh, devo darvi il numero. SS Soldani è cambiato il numero, clamoroso. Abbiamo comunicato notizia, come detto, a borse chiuse per evitare ovviamente implicazioni. Comunque, 349-239-0191. 349-239-0191. Il mio sogno è un giorno, visto che sono 4 sì. anni. Mi piacerebbe dire il numero. Dillo subito. Andiamo. Lo alzo. No, importante. È una fase in cui dobbiamo 349-239-019. Poi togli il dito 1 0191. Va bene. L'hai detto bene il numero. Allora, stiamo per collegarci con Marco Montemagno in diretta da Brighton. How you doing, Miss Montemagno? How you doing? Oh. Fantastico. Ciao, qualche istante fa, mentre eravamo in pausa, ci dicevi che avevi un problema con un ausiliario davanti. Che fanno? Tu sei a Brighton, no? Nel sud dell'Inghilterra, Brighton, sul mare. Sì, sono a Brighton e sono tremendi, cioè ti multano dappertutto. Quindi stavo per uscire all'italiano e dire: oh, aspetta, sono qua, è mia l'auto. E lì tanto ti multo uguale, non è che puoi discutere. Perché eravamo con Pasotti qualche istante fa, che sta girando per il Flaminio, un quartiere bellissimo di Roma, a caccia di un ferramenta. Tu invece hai problemi con gli ausiliari del traffico. Penso, mi sembra un sabato mattina. Sabato mattina, sì, anche inglese. Italiano. Si vede il mare. Che si mangia a Brighton? Fish and chips, te lo dico io. Fish and chips alla grande. Però posso dire una cosa? Sì. Davide, prima o poi devi fare un salto, e dovete fare un salto. La qualità dei ristoranti è molto cresciuta, perché da Londra si sono spostati molti chef, e allora hai dei ristoranti dove oggettivamente mangi molto bene. Due o tre sono di alta qualità, devo dire. Senti, come va lì con Covid, con ristoranti, col fatto degli assembramenti, che vedo nelle ultime news che magari siete un po' più leggeri. Come è stato allora, anche durante la pandemia, tutti fuori allegramente, quindi diciamo Brighton è anche strana come città, nel senso che ad oggi sì, tutti con le mascherine, ma non si avverte granché. Una cosa che vi segnalo invece, l'operazione che ha fatto il governo ad agosto, hanno fatto eat out, help out, cioè mangia fuori e aiuta, no? I ristoranti, per far andare la gente al ristorante, e offrivano il 50% di sconto in alcuni giorni della settimana con un limite, e il numero pazzesco è che su 67 milioni di inglesi hanno fatto 64 milioni di pasti, così, tutti fuori ristoranti. Quindi di media quasi un pasto a persona. Beh, insomma... Un modo corretto per aiutare, insomma, quello che è la parte dell'economia anche inglese, oltre a quella italiana. Sì, anche qui in Italia dovremmo iniziare a fare queste cose. Ecco. Sì, dovremmo iniziare a fare queste cose. Poi è anche vero che nell'Inghilterra, insomma, l'aspetto climatico ovviamente incide. Brighton forse è una delle poche città dove veramente si può mangiare fuori per tanti mesi all'anno, quasi come un posto mediterraneo, quasi ovviamente, gabbiani permettendo. Senti Marco, ma in tutte le tue interviste, ormai ti seguo da quando ci siamo conosciuti, ormai credo 7-8 anni fa, prima che iniziassi tutta questa tutte queste interviste, queste cose molto interessanti che fai sul web, quella più particolare che ti è capitato, che ci puoi raccontare negli ultimi 2 anni o addirittura durante la pandemia, perché poi io e te ogni tanto mi chiami a rapporto e ci raccontiamo un po' di cucina. Hai toccato, oltre che con me, con altri personaggi, il mondo cibo, il mondo ingredienti, il mondo anche come trasportare il cibo. Guarda, ho intervistato qualcuno che fa, ad esempio, tu sai che, per dire, il creatore di contenuti che fa più numeri in questo periodo è Benedetta Rossi, no? Che fa dei numeri, sì, pazzeschi, ricette di cucina, eccetera. E di recente ho intervistato una ragazza su TikTok, sta crescendo fortissimo, e lei fa dei video di un minuto sui dolci, si chiama Cooker Girl. Ed è un caso interessante, perché è una ragazza molto giovane che divulga la passione per il cucinare dolci. Certo. E quindi dice: vabbè, ma su TikTok i ragazzini sono interessati tantissimo. E per cui questo mi colpisce e colpisce come queste nuove piattaforme, in realtà, se tu sai come comunicare, puoi trasmettere tantissimo. Infatti, però il cibo è un po' una costante. Sì. Il cibo è una costante perché è fondamentale nelle nostre vite, ha mille aspetti anche di carattere identitario, ideale, che conosciamo molto bene e che proviamo a raccontare. Ma il digitale, in che cosa? Cioè, quali sono le cose, secondo te, più interessanti del digitale? Appunto, questi giovani e meno giovani blogger che diventano famosissimi e che danno consigli in qualsiasi momento, il fatto che ovviamente sulla rete puoi trovare qualsiasi ricetta di qualsiasi parte del mondo in qualsiasi momento, mentre una volta dovevi comprare il vecchio libro di cucina, o forse magari più le app, il take away, il fatto di potersi far portare il take away, il fatto anche delle consegne a domicilio, cioè è cambiato tutto. C'è qualcosa ancora inesplorato, secondo te, nel rapporto fra cibo e digitale? Ma diciamo, ogni giorno uno scopre cose nuove. Oggi chiaramente hai questa grande esplosione del take away, perché eravamo tutti in casa e quindi sono esplosi, sono tutti le varie aziende che fanno consegne. E secondo me, in generale, quello che sta succedendo è il rapporto, ad esempio, tra il ristoratore e il cliente. Può evolversi, no, col digitale. Non è che sei per forza costretto soltanto a dire comunico su Instagram e poi faccio il take away. Magari puoi sviluppare la tua app e hai un rapporto diretto con l'utente e cerchi di fare delle iniziative dove è sempre più fidelizzato. Quindi tutta questa parte è ancora da esplorare. Ad oggi invece è ancora, diciamo, due categorie: le piattaforme che fanno ad esempio le consegne, o le varie app con le recensioni, eccetera, TripAdvisor, e poi c'è i ristoratori e i ristoranti che fanno le loro attività e si appoggiano. Il prossimo passaggio sarà: io invece ristoranti prendo il controllo di questa situazione e sono io a digitalizzarmi e offrirti un servizio, delle iniziative. Questo secondo me sarà il passaggio. Cioè il do digitale. Il do digitale. Che rapporto hai col delivery? Ma sul delivery sono d'accordo su prodotti che puoi cucinare poi tu a casa. Non sono d'accordo sul delivery del prodotto cucinato quasi 99%. Ma devo dire che non sono neanche molto d'accordo sul delivery, ahimè, scusatemi se lo dico, della pizza, perché la cosa più buona è la freschezza, tra virgolette, da quando uno leva la pizza di un forno a legna, la serve, senti i profumi della legna, della carbonella, il profumo stesso dei lieviti. C'è una possibilità di ingredienti o anche di piatti che possono essere comprati così col delivery, e altri, secondo me, in e out anche in questo caso, per cui io ti dico una pizza mai, ti dico una frittura, un fish and chips assolutamente mai, però magari un sushi con del riso o con un pesce cotto, naturalmente, perché poi anche la tracciabilità del prodotto e il trasporto, certo, è fondamentale, perché se poi mi stai in giro per mezz'ora in un sacco sotto 40 gradi di sole, capisci che poi si va a toccare anche la materia prima, per cui cambia anche il modo di nutrire le persone. Sarei un po' meno superficiale sulla compra di questi piatti e andrei un po' più a fondo, proprio per evitare di non nutrirmi bene. La mia idea è questa: il gelato va bene, posso provarci per farlo, anche se è una cosa delicata, però con i vari box che proteggono, se stai in giro 5 minuti riesci. Ma infatti, io, se mi posso mettere in quest'epoca di grande attenzione, giustamente, alla luce anche di tutto quello che è successo agli aspetti sanitari della vita, no? Quindi con la scienza e con il controllo e la prevenzione che se possibile è stata ancora di più sottolineata vista l'emergenza che viviamo, ecco, non dimentichiamoci questo, non dimentichiamoci che il cibo è sicuramente passione, gioco, godimento, qualche volta è anche un godimento di cose che un po' rozze, perché è bello pure quello, a me piace, figurati, però poi tutto quello che mangiamo, insomma, diventa parte del nostro corpo, incide sulla nostra salute, quindi da questo punto di vista tracciabilità è un tema chiave. Senti, facciamo la seconda ricetta, magari con Monti che ci ascolta e dà il suo contributo. Che vuoi fare, Monti? Vuoi fare fico verde con fegato alla veneziana o fico nero al cartoccio, rucola amara e salsa alla vaniglia? Scegli. Scegli. Cioè, io che non so neanche cucinare un hamburger, guardo il tutorial su YouTube, mi sento di male. Tu basta che dica uno, due, perfetto, ha detto rucola. Allora, fico nero al cartoccio, rucola amara e salsa alla vaniglia. Allora, naturalmente molto semplice, ascolta bene Marco, perché comunque se vai al mercato questa mattina li puoi trovare, e puoi trovare tutti e due gli ingredienti e cucinarli a casa. La cosa che ci interessa quest'anno è anche comunicare i prezzi, magari, certo, possiamo confrontarli anche con UK, con Marco. Allora, in questo piatto gli ingredienti fondamentali sono naturalmente il fico nero in questo caso, e la rucola, quella selvaggia, quella selvatica, scusa, che è un po' più amara, un po' più fine, per cui partiamo da un prezzo di 12 euro al chilo della rucola e di 5-6 euro al chilo dei fichi. Detto questo, è molto semplice, prepariamo un cartoccio fatto con una carta da forno 30x30, adagiamo i nostri fichi che abbiamo spazzolato, lavato leggermente con molta delicatezza perché se sono maturi sono molto teneri, togliamo il picciolo sopra, in questo cartoccio mettiamo una grattugiata di noce moscata, una stella di vaniglia aperta in maniera tale che escano tutti quei puntini neri che sono il profumo importante della vaniglia, 30 grammi di buccia di arancia tagliata in un pezzo grosso, una foglia d'alloro secca, non quella verde perché è molto meno profumata, poi saliamo leggermente, ascoltate bene, perché questa parte di sale sul fico molto maturo accentua ancora di più la dolcezza e soprattutto il profumo del fico, chiudiamo il cartoccio, lo inforniamo per 30 minuti a 120 gradi più o meno. Dopodiché togliamo, apriamo il nostro sacchetto, avremo i fichi naturalmente cotti, molto teneri, ancora più teneri all'interno, avremo un piccolo sciroppo che si adagia in questa base del cartoccio e poi li serviamo naturalmente in un piatto con una rucola che avremo solo lavato, asciugato per bene, condita con un velo di olio e poi quello sciroppo che saprà di alloro, di agrume, di noce moscata che abbiamo trovato nel cartoccio del fico. Per cui molto semplice, e in questo piatto qui dicevo 5-6 euro al chilo i fichi e 12 euro al chilo. Com'è il mercato del Rocket? La rucola come quanto costa? Grazie Monti, ci vediamo presto, ci sentiamo fra poco, Spazio News, ancora ricette, tante altre cose, da arrivo a Soldani. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, fra poco gli S.A. Soldani in questa puntata dedicata al fico. 349-239-0191, 349-239-0191. Oldani mi guarda così un po' invidioso perché voleva dire lui il numero. Ma invece, Oldani, torniamo al punto di partenza della nostra puntata. Allora, il fico è essenzialmente una forma di frutta dolce che è utilizzata sia in pasticceria che anche, devo dire, nella cucina moderna salata. Io direi nelle cucine, nelle pasticcerie e anche quando vai a far sport, perché anch'io, certo, in questo periodo mi preparo le mie barrette se faccio qualcosa e mi prendo questa energia, questa dolcezza molto naturale del fico. Fico può andare bene col prosciutto, può andare bene col cioccolato, diciamo. Questo sì. È abbastanza curioso, no? Allora, io direi di sì, perché comunque è quello che io chiamo l'equilibrio dei contrasti, perché tu vedi, hai fatto due esempi dove c'è il contrasto assoluto tra il salato e il dolce, per cui naturalmente con il fico devi fare un po' più attenzione perché è molto calorico, ha tanti zuccheri e sono zuccheri nobili naturalmente, per cui l'attenzione che devi fare è proprio quella. Allora, parliamo anche un po' di stagionalità e di luoghi. La qualità bianca del Cilento, l'abbiamo evocata prima, è ovviamente straordinaria. Campania, Calabria e Sicilia e anche in parte la Puglia sono sicuramente le regioni più importanti. La stagionalità, allora, i primi sono i primaticci, nascono in autunno, poi vengono raccolti in primavera inoltrata, mentre quelli che chiamiamo comunemente fichi si formano in primavera e vengono raccolti in estate. Poi ci sono i fiorori, che sono quelli di maggio, no? Fine primavera, inizio estate, fino quasi alla fine dell'estate, quando ci sono gli ultimi. È vero che i fioroni, che sono quelli di maggio, sono più grandi di quelli di settembre? Assolutamente, sono più grandi, sono più turgidi, si prestano per alcune preparazioni, magari anche a crudo. E direi che i fioroni, magari molte volte è bene spolverarli con un tocco, se devi usarli per fare, creare dei contrasti nei piatti salati, spolverarli con un tocco di zucchero. Io uso il moscovado perché è uno zucchero naturale, perché molte volte mancano un po' di dolcezza, per cui un tocco di questo aiuta. Zucchero, e poi questo zucchero tu sai che ha un profumo anche di liquirizia, per cui molto intrigante. Spazio News, vai. Allora, partiamo dal bollino di qualità per il pesce d'allevamento italiano, un segnale che arriva direttamente dal ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova, in particolar modo all'acquacultura, che sappiamo che è proprio un settore dell'agricoltura italiana. Le etichette trasparenti che sottolineano la qualità dei prodotti ittici degli allevamenti italiani servono e sono fondamentali per comunicare le strategie. Alla fine il discorso è sempre lo stesso: noi siamo un paese di enormi eccellenze, di enorme attenzione alla qualità e alla tracciabilità del nostro prodotto. I bollini ci aiutano. aiutano e dobbiamo lottare sempre e comunque perché possono ovviamente sottolineare la qualità e la differenza del nostro prodotto. Assolutamente. Brutte notizie dal settore delle pere, perché è un altro anno maledetto, dopo le cimici e le gelate quest'anno c'è stato anche un fungo, le associazioni denunciano problemi, un'annata praticamente compromessa e la tenuta del comparto a rischio, e questo insomma è ovviamente un problema. Il colpo è durissimo soprattutto in Emilia Romagna, che è il 70% della produzione nazionale, 114.000 tonnellate di prodotto e 267 milioni di euro erano già andati in fumo a causa della cimice asiatica. Quest'anno c'è questa ulteriore problematica del fungo. E mentre le patate tengono, il boom del lockdown però non basta, tant'è vero che il presidente Romagnoli parla di vendite inferiori rispetto al 2019. Il 2019, va detto, era stato un anno molto buono, chiuso con un fatturato di 44 milioni e mezzo di euro. Nel primo semestre c'è un rallentamento e quindi insomma non è, questi sono i dati di Romagnoli. È un prodotto che nel lockdown è stato molto utilizzato, io pure lo posso dire nella mia piccola esperienza, insomma la patata è proprio anche a casa un... Ma lo usavi solo come contorno oppure facevi dei piatti? Beh, con la carne devo dire, non ho mangiata tanta, devo dire è un cibo, forse mi sbaglio, ma un po' consolatorio, no? Che soprattutto pasta con le patate, l'hai mai provata? Pasta e provola, ragazzi, per carità, però insomma il fatto anche che era primavera la usavo soprattutto, devo dire, con la carne e col pesce. Però insomma c'è stato un boom nel lockdown, ma i numeri sono inferiori rispetto a quelli dell'anno scorso. La vendemmia del 2020, l'Italia qui mantiene il primato con la produzione a 47,2 milioni di ettolitri, ne parlavamo la settimana scorsa. Ci sono numeri incoraggianti che arrivano dal consumo domestico, meno buoni quelli dell'oreca, perché chiaramente non si è andati al ristorante per mesi, e sappiamo che il vino, soprattutto il vino a un certo livello, viene consumato in un segmento importante proprio nei ristoranti e negli alberghi. E poi il Forum Cibus con l'agroalimentare, che questa non è una novità, è la prima ricchezza del paese, ma con gli aiuti che servono per bar e ristoranti, io do il benvenuto a Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati e direttore generale del Centro Agroalimentare Roma. Buongiorno Pallottini. Come, di cosa c'è bisogno? Siamo in una fase ovviamente nella quale c'è bisogno di tante cose, no? In tanti settori della nostra vita, ma per l'agroalimentare, per la crisi che hanno avuto inevitabilmente bar, ristoranti e alberghi, che cosa si può fare? Certamente la ripresa del settore Horeca è fondamentale per l'agroalimentare, soprattutto per l'agroalimentare italiana. Io direi la ripresa del turismo è un altro elemento importante, perché un pezzo di domanda dell'agroalimentare, soprattutto dell'agroalimentare di qualità, viaggia sulle gambe dei consumi dei turisti. E poi per gli italiani c'è bisogno forse che ci sia una situazione più serena, e quindi i consumi alimentari riprendano, così come tutti i consumi, con un po' più di diciamo di andamento più regolare. Adesso abbiamo avuto una situazione dopo l'estate di rallentamento dei consumi, che nasce dalle preoccupazioni delle persone. C'è questo dato che è bello, ma è drammatico nello stesso tempo, no? Dell'aumento pazzesco del risparmio. Esatto. La gente risparmia, questo è un dato positivo da un certo punto di vista, ma è drammatico da un altro. Se posso aggiungere, c'è un dato ulteriore che proprio si lega a tutto il mondo del consumo alimentare, e cioè un più 7% dei prodotti di discount, che per carità insomma hanno la loro assoluta legittimità, però insomma è un altro ulteriore segnale di quello che diceva lei, cioè comunque anche psicologicamente è un momento di incertezza, ovvio, perché per tutto quello che è successo, e questa cosa si riflette anche nel comportamento del consumatore, Davide, no? No, assolutamente sì, lo vedo quotidianamente nelle mie attività, per cui questa parola del risparmio però credo che faccia bene in previsione di un futuro che insomma è un po' incerto, e voglio ricordare che il risparmio ci ha permesso di costruire, di arrivare ad oggi con un'Italia ricostruita. Penso che Barisoni possa confermare che se c'è un meccanismo che ha tenuto in piedi il paese anche nei momenti più difficili, poi era l'attitudine al risparmio degli italiani, che è molto superiore a quella degli altri. Quindi che cosa serve in chiusura, Pallottini? Cioè, che cosa, se lei fosse oggi Presidente del Consiglio, non so se si può candidare. Io ho visto un grande interesse, per esempio il fatto del provvedimento sostenuto dal Ministro dell'Agricoltura di aver dato ai ristoratori italiani un bonus, un voucher per comprare prodotti agroalimentari italiani. Se questa cosa venisse confermata, venisse estesa, dovremmo avere una doppia sinergia, un aiuto ai ristoranti e un aiuto al settore, no? è una di quelle classiche misure win-win, certo, che vanno bene. Ecco, quella secondo me la pecca sta nel fatto che la definizione delle risorse è una dimensione esigua rispetto all'estensione del sistema della ristorazione italiana. Grazie. Fabio Massimo Pallottini, noi continueremo ovviamente sempre di più rispetto agli anni scorsi, perché insomma è chiaro che la situazione in cui ci troviamo anche dal punto di vista economico è comunque di emergenza, con delle dinamiche che sono purtroppo diverse rispetto agli anni scorsi, quindi continueremo con gli ambasciatori del gusto ma anche con tutti i rappresentanti dei vari settori produttivi e di distribuzione a capire che cosa succede nel mondo del cibo e dell'economia legata al cibo. Vuoi fare prima Alessio Soldani o vuoi fare prima guarda sembra tipo i professori quelli buoni, argomenta a piacere. Fico verde con fegato alla veneziana. Ecco, va bene, prego, vai. Facciamo questa, va bene, benissimo. Vai. Anche in questo caso ho abbinato una cosa molto particolare, che è una frattaglia, un fegato, è un piatto della cucina classica italiana, dove la fa un po' da padrone naturalmente il fegato e anche la cipolla, in questo caso anche questo fico che facciamo caramellare in padella. Molto semplice, tagliamo la cipolla dorata a metà, facciamo delle piccole listarelle, facciamo sbianchire in acqua bollente e salata, le leviamo le scoliamo, le facciamo arrostire con una noce di burro in una padella, facciamo cuocere per poco, per più o meno 10-12 minuti, in maniera che appassiscano. In una padellina a parte facciamo arrostire le nostre piccole fette di fegato, più o meno 350 grammi di fegato tagliate a fette molto sottili per 4 persone. Una volta fatte arrostire da una sola parte le leviamo, le teniamo da parte. In un altro padellino sciogliamo 20 grammi di burro, aggiungiamo 4 fichi tagliati, in questo caso fichi verdi sbucciati e tagliati a metà, li facciamo arrostire a fuoco alto o a calore alto se dovessimo usare la piastra a induzione, con 20 grammi di zucchero moscovado per dare ancora più dolcezza, una cottura veloce, quindi metteremo nel nostro piatto una base, un letto di questa cipolla fondente, e un pezzo di fico per persona, anzi due metà, due mezze, e poi sopra il fico adageremo questo nostro fegato che sarà molto sottile e molto tenero. Anche se è una frattaglia, io consiglio di non fare come la cucina classica o la cucina che fa la mia mamma, dove stracuoce il fegato, ma essendo fette sottili ho aggiunto di cucinarle solo da una parte in maniera tale che rimangano rosa e rimangano tenere. E prezzi? Prezzi siamo più o meno a 10-10,50 euro al chilo per il fegato. In questo caso utilizziamo 80 grammi di fegato per persona. E qui insomma c'è il solito metodo Oldani, potrei dire, no? La freschezza, la contaminazione fra sapori, cioè il fico da al fegato alla veneziana un profumo è molto, una freschezza buono, diversa, no? Quando noi abbiamo una sapidità totale nel piatto, se andiamo ad aggiungere quel leggero tocco di dolce, il nostro palato, certo, comincia a esplodere, a decollare, per cui ha sensazioni diverse. SOS Oldani, vai! SOS Oldani. Lucia. Vai. Lucia da Binasco. Buongiorno chef, quando devo tostare il pepe in padella è meglio schiacciarlo prima con il mortaio o dopo la tostatura? Allora direi è meglio schiacciarlo prima col mortaio, recuperiamo quella polvere che lascia nel mortaio, la teniamo a parte, poi tostiamo la granella di pepe in padella. Ilaria da Latina. Ciao chef, ma se dovesse fare una previsione, quale sarà l'ingrediente più in voga del 2021? Due, il cacio e il pepe. Sì. Scherzo. No, non lo so, spero una verdura o un pesce azzurro. Pesce azzurro per tutta la vita, una verdura, ma soprattutto fai una volta, ma lasciati andare, ma butta dentro una cosa. Un bucatino. Vabbè, lo riprendiamo. Riportiamo in volta. Anche se il bucatino è complicato, Perché no? Perché anzi, consistenza incredibile. Marco Tulli oggi in regia che mi guarda, il bucatino è complesso, insomma, cioè il romano sviluppa una capacità nella gestione del bucatino, perché insomma, può decollare in qualsiasi direzione il sugo del quando bucatino. Lo mangi decolla il sugo, appunto. Devo dire che il bucatino forse negli ultimi anni è un po' in calo, no? È sentito meno anche all'estero, per cui io sono per un rilancio del bucatino. Però la mezza manica, dai. Vabbè, quella c'è, quella sappiamo, possiamo dormire tranquilli, vabbè, quella c'è sempre. La mezza manica. Massimiliano da Roma. Buongiorno chef, ma dopo 4 anni secondo lei Pierluigi avrà imparato a cucinare qualcosa in più? Secondo me sì, secondo, sì. No, secondo sì, me sì. È un bravo studente, vedo che si applica. Ma a me piace guardare, piace guardare. Devo dirti che insomma sono stato, ho fatto un grande weekend scorso. Anche questo non è male, questo che sta arrivando, e fra Langhirano prima e poi Dogliani. Quindi poi sono stato da Maurilio, che tu conosci molto bene. Salutiamo tutti. Ciao, salutiamo tutti. Ferronato, Marco Tulli, De Luca, Schiattone, torniamo. Pardo e Pardo. E anche salutiamo Pardo. Ciao. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con SuperSite. Su Aruba.it.